Francesco e Pina, siamo due entomologi. Ok. Allora, io sono Francesco Leddina, siamo due entomologi qui di Reggio Calabria e siamo degli appassionati così in questo mondo degli insetti. Vogliamo presentarvi così una piccola presentazione sulla nostra attività, va bene? Sulle nostre attività che svolgiamo qui in questa terra. Allora, quindi noi ci occupiamo di biodiversità. Conoscete la parola biodiversità? Cosa significa? Sì, immagino di sì. Insomma, la biodiversità è quella che noi intendiamo come variabilità degli organismi viventi, ok? Ed è un concetto che è andato per la prima volta nella conferenza di Rio de Janeiro del 1992, quando per la prima volta si è parlato di biodiversità. È un termine che poi ha, diciamo, Wilson, che è un entomologo che purtroppo è andato via nel 2021, insomma, ha usato tantissime volte nelle sue attività, ed è un concetto molto importante. Perché? Perché è importante? È importante la conservazione della biodiversità per aspetti molto importanti. Il primo è l'obbligo morale che noi abbiamo nei confronti delle generazioni che verranno, ok? E dall'altro invece è anche diventato un imperativo di tipo economico, perché la ricchezza di specie e le forme di vita che ci circondano non solo hanno un'importanza intrinseca, ma hanno anche importanze sociali, etiche, ecologiche, eccetera eccetera. Ok, la biodiversità nel nostro caso, quella di cui vi parleremo, vedete, sostiene quella che è la nostra qualità della vita e ci dà una serie di benefici economici diretti e indiretti. Noi la consideriamo il nostro capitale naturale. Naturalmente i numeri della biodiversità sono tantissimi. Noi ci occupiamo della biodiversità dei più piccoli, e cioè degli insetti o degli artropodi in generale, perché l'Italia, pensate che in Europa è il paese con il più alto numero di specie animali, ok? Oltre 56.000. Di queste, pensate, il 99% è rappresentato dagli invertebrati. Invertebrati, sapete, insomma, non sono solo gli insetti, ma sono i ragni, i centopiedi, i millepiedi, insomma, i crostacei, eccetera, eccetera. E naturalmente vi parliamo di questo perché è la componente fondamentale che dirige, insomma, la nostra biodiversità. Qui alcuni numeri veloci, insomma, ok? Il numero di complessivo di specie animali varia tra i 3 e i 100 milioni. E il gruppo più rappresentato è proprio quello degli insetti. Attualmente sono circa 930.000 specie di insetti conosciute al mondo, ma si pensa che possano essere anche fino a 5 milioni di specie che ancora dobbiamo indagare. Ecco qua, vedete? Siamo a circa 953.000. Questo è preso dal Catalogo della Vita, che è un sito web che è in continuo aggiornamento, e ogni giorno, insomma, vengono segnate le specie che sono che vengono scoperte, sia quelle che poi si estinguono. Evviva, intervieni quando vuoi. E dopo questa breve introduzione semplicissima, insomma, vogliamo parlarvi invece dell'aspetto che riguarda la biodiversità entomologica dei nostri ambienti. E qui passo la parola a Evviva. Sì, sicuramente l'Aspromonte da questo punto di vista è una terra ricchissima di biodiversità, tant'è che viene proprio considerato un hotspot, cioè un punto caldo della biodiversità, uno tra i più sicuramente rappresentativi in Europa. Cosa contribuisce a far acquistare questa particolarità a questa terra? È sicuramente la sua posizione, proprio al centro del Mediterraneo, che appunto favorisce quindi l'incontro di vari cosiddetti corotipi, cioè modelli di distribuzione provenienti quindi da tutto il contorno che circonda l'Aspromonte, quindi il corotipo africano, per esempio, oppure quello europeo proveniente proprio dal nord, nonché quello, per esempio, alpino e appenninico, che è proprio tipico dell'Italia. E, Sicuramente in Aspromonte si parla quindi di biodiversità, rarità ed endemicità. Si può parlare proprio di questi tre concetti che sono importantissimi. La biodiversità, Francesco, insomma, vi ha già accennato a qualcosa, quindi è la ricchezza di specie che appunto sono presenti in una determinata area. Oltre alla biodiversità abbiamo anche un importante concetto di rarità, cioè una specie definita rara sia come presenza in un limitato numero di aree, sia come numero, quindi scarsità, diciamo proprio numerica, di individui all'interno di una certa area. In Aspromonte abbiamo trovato specie veramente rare, proprio grazie, insomma, alle ricerche che da diversi anni stiamo portando avanti in questo straordinario territorio. Altro concetto importante è l'endemicità. Una specie endemica è una specie che troviamo esclusivamente in una determinata area geografica e in nessun'altra parte del mondo. In Aspromonte abbiamo degli endemismi, cosiddetti endemismi, che quindi sono appunto specie che non esistono altrove, è una ricchezza che abbiamo soltanto noi. Questo è bello da una parte, ma è, diciamo così, anche controproducente dall'altra, perché quando si arriva a perdere una specie endemica, quindi una specie endemica si estingue, vuol dire che quella specie è persa per sempre, non la ritroveremmo in nessun'altra parte del mondo. Quindi immaginate che cosa vuol dire dal punto di vista proprio, diciamo, di importanza naturalistica, perdere una specie endemica. È una perdita incommensurabile. Allora, brevemente, diciamo, presentiamo un po', le attività che svolgiamo in Aspromonte e che svolgiamo su due livelli diversi. Il primo è quello di attività universitaria, quindi gestita da un dipartimento che in questo caso è un dipartimento che sta all'ex architettura, che è il PAU. Noi afferiamo a questo dipartimento. Abbiamo un laboratorio che si chiama Laboratorio di Ecologia e Entomologia. Sì, davanti o dietro? Davanti, ok. Che si chiama, insomma, LEA, quindi Laboratorio di Ecologia e Entomologia Generale Applicata, ed è guidato da diciamo, un entomologo, diciamo che è un professore universitario, che si chiama Carmelo Peter Bonsignore, e noi come studiosi ci affianchiamo, quindi non siamo strutturati. Ecco, naturalmente svolgiamo attività didattica nei corsi di scienze forestali e scienze agrarie e anche nei corsi di architettura. Recentemente abbiamo aperto un nuovo filone nella facoltà di design, quindi ci occupiamo di strutture e forme animali, diciamo, nel design. Devo dire che quest'anno è stato bellissimo, abbiamo avuto 30 studenti, studentesse per lo più, che hanno predisposto una serie di progetti, diciamo, alcuni molto belli, insomma, strutturali, altri di design, proprio realizzazione, insomma, addirittura hanno fatto anche un videogioco sugli insetti, insomma, si sono sbizzarriti tantissimo. E poi naturalmente ci occupiamo delle scienze forestali, ok? In ambienti pregevoli, che sono quasi tutti, insomma, diciamo, attività che svolgiamo in Aspromonte. Ok, abbiamo poi una terza missione che svolgiamo insieme ad Elvira, nell'ambito dell'associazione per la quale oggi siamo qui, che è l'associazione Emozione Natura, che è il trasferimento scientifico e culturale di quello che noi abbiamo acquisito in questi anni, ok? Nei nostri studi. Abbiamo fatto le scienze forestali, ci siamo specializzati in entomologia, siamo abbastanza, insomma, conosciuti anche in ambito italiano, insomma, ed europeo, ma abbiamo una missione importante, che è quella di trasferire queste conoscenze ai più piccoli, perché secondo noi il futuro, diciamo, il futuro è loro, e loro devono essere abbastanza, Il terreno più è fertile, anche il terreno più sicuramente. fertile. Come vedete, sono tutta una serie di attività che vi stiamo mostrando, che abbiamo svolto negli anni Questo è e un che. esempio capollavoro, vedi, Ecco, voglio che hanno mettere visto, tutto insomma, quanto. il passaggio di centinaia e centinaia di ragazzini, insomma, anche degli adulti, in cui noi abbiamo cercato di trasferire queste nostre conoscenze scientifiche in maniera molto semplice, molto elementare, ai ragazzini, con, devo dire, risultati interessantissimi, perché riceviamo ancora messaggi, chiamate, telefonie, telefonate, insomma, foto che ci vengono inviate dai ragazzi per capire cos'è questo insetto, cosa, eccetera, eccetera, insomma. Queste sono alcune delle immagini di attività che noi svolgiamo in Aspromonte, attività didattiche che svolgiamo con le scuole, quindi sia in laboratorio che poi e poi in classe. Queste sono sempre altre lezioni importanti. Questa è una lezione sulle trappole che vengono messe per la cattura degli insetti a scopo di ricerca. Ok, questa è un'altra attività. Qui facciamo vedere le farfalle tra le più grandi al mondo. Abbiamo anche una pagina Facebook che diciamo, è diretta da Elvira, che è amministratrice, che si chiama Entomologia. Siamo oltre 16.000 iscritti, tutti quasi entomologi o appassionati. E quindi chi vuole avere informazioni o chi vuole entrare in questa rete, insomma, si può associare al iscrivere, deve rispondere ad alcune domande, perché il gruppo è chiuso per evitare, insomma, e nel gruppo si discute di un sacco di altre cose. Sempre in termini entomologi, sì. Questi puntini che vedete qui rappresentano tutte le nostre attività di ricerca svolte negli ultimi anni in Aspromonte, distribuite i siti di studio, quindi più o meno l'Aspromonte lo conosciamo veramente molto. Vi faccio vedere un po' adesso di attività di ricerca universitaria, magari adesso passo la parola al Elvira e intervengo ogni tanto anche io, ma riguardano tutti i monitoraggi che sono serviti a noi per far conoscere in primis all'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, che è l'istituto che dovrebbe proteggere la natura, che dovrebbe proteggere la natura, e poi un po' tutte le attività che abbiamo svolto in questi anni. E allora? Sì, allora, sicuramente, forse qualcuno di voi riconoscerà, la famosissima felce bulbifera preistorica, parliamo di una signorina di circa 60 milioni di anni fa, un vero e proprio fossile vivente, che è la Woodwardia radicans, che abbiamo anche in Aspromonte, in diverse località, in diversi siti. Sono naturalmente siti, diciamo, di grande importanza, perché rappresentano l'habitat ideale per questa felce. Che è da 60 milioni di anni, stiamo dicendo. È riuscita ad arrivare fino ai nostri giorni e ha trovato evidentemente in Aspromonte, in queste aree localizzate, le condizioni favorevoli per poter appunto continuare a svilupparsi. È una felce tropicale, è una felce quindi che solitamente ha bisogno di temperature e umidità particolari, che evidentemente in queste grandi, diciamo, vallate, in questi impluvi dove si trova appunto, si trovano queste popolazioni, si sono riuscite a mantenere. E abbiamo trovato, insomma, vari insetti, tra cui questo piccoletto che vedete, diciamo, in basso a destra, che è un piccolo coleottero, è uno stafilinide, che è, diciamo, una specie endemica italiana, quindi ce l'abbiamo solo noi in Italia e siamo riusciti a trovarla anche in Aspromonte. Altra, diciamo, scoperta, questo coleotterino che vedete qui è, diciamo, del genere Oplia, che abbiamo scoperto l'anno scorso, nel 2022. Una specie nuova per la scienza, quindi era un insetto assolutamente totalmente sconosciuto al mondo, e siamo riusciti, insomma, a portarlo alla conoscenza del mondo scientifico e insomma di tutti. Anche questo è sicuramente una specie molto particolare, è uno tra gli ortotteri. Gli ortotteri sono uno degli ordini, appunto, degli insetti che comprende cavallette e grilli, per intenderci, per, insomma, meglio capire. E quello che vedete qui, che, insomma, vedete in queste immagini, anzi ve la faccio vedere proprio, ecco, perché così forse rendete conto meglio delle sue dimensioni, è uno appunto tra i più grandi come dimensioni in Europa, e noi l'abbiamo trovato anche qui in Aspromonte. Non so se siete tutti di Reggio o no, ecco, forse Maria Lucia saprà, a Santa Domenica sopra Terreti c'è questa zona molto, diciamo, circoscritta e piuttosto arida, dove abbiamo trovato appunto questo bellissimo esemplare. Altra specie che possiamo vantare di avere in Aspromonte è la bellissima farfalla Apollo, così chiamata per via di queste macchie, vedete, rosse, che ricordano molto dei piccoli soli, da qui il nome appunto di Apollo, che è come forse anche voi saprete, il re sole, insomma. E questa farfalla, diciamo, mentre prima era molto più diffusa, era presente anche sulla Sila, e purtroppo adesso in queste zone è scomparsa, e ce la ritroviamo solo qui in Aspromonte, quindi è una popolazione relitta delle glaciazioni, quindi immaginate quanto, da quanto tempo è presente, che per fortuna ancora riusciamo ad avere, e anche in abbondanza, qui in Aspromonte. Quella è una specie protetta, quindi noi quando la osserviamo la possiamo solo, diciamo, magari catturare, osservare e poi liberare, va bene? Quindi questo è, diciamo, uno degli aspetti che ci caratterizza, nel senso che quando possiamo cerchiamo di lasciare tutto alla natura, va bene? Ecco, questa è la bellissima Zerinzia che abbiamo trovato anche qui in Aspromonte, una piccola farfalla di pochi centimetri, ma di una bellezza stratosferica, sembra proprio un quadro vivente. Guardate queste particolari frange che ha sulle ali, ed è un papilionide anche questo, quindi la stessa famiglia di Parnassus. Adesso vi presentiamo una carrellata di attività che svolgiamo in bosco e vi faccio vedere un po' di attività così fotografiche, ecco, senza chiacchierare più di tanto. Questa ad esempio è stata un'attività bellissima che ci ha visto partecipare insieme a uno specialista europeo di un piccolo gruppo di coleotterini minuscoli che si chiamano cantaridi e che ci ha fatto visita in Aspromonte. Vedete qui un po', queste sono alcune delle immagini, delle riprese, un vecchietto insomma, però espertissimo insomma nella sua materia, e naturalmente la conclusione di queste sue giornate di attività è stata il ritrovamento di una specie nuova per la scienza, quindi diciamo un'ennesima specie nuova che noi, grazie insomma alla sua collaborazione, abbiamo chiamato Maltodes reginus in onore alla città metropolitana di Reggio Calabria. Abbiamo trovato in Aspromonte, in una zona che si chiama Serro Juncali, che diciamo, è all'incrocio tra tanti comuni, per non scontentare nessuno, diciamo, abbiamo dato questo nome. E vedete, lui andava a caccia. Quindi noi ad esempio dalle attività che facciamo con questi entomologi, quindi facciamo anche un po', lo chiamiamo noi turismo scientifico, nel senso che invitiamo molti entomologi europei a farci visita qui in Aspromonte, perché qui in Aspromonte, sapete, era considerata una parte, diciamo, non veniva nessuno qua, non so per quale motivo, paura forse, insomma, e quindi qui, diciamo, per tanti anni che c'erano latitanti e sequestrati, non lo sappiamo diciamo che questo non ha favorito sicuramente, non ha favorito, però d'altra parte noi eravamo piccoli quindi non avremmo potuto partecipare, invece in questi anni stiamo partecipando, chiunque viene di entomologi insomma alla fine esce fuori diciamo sempre qualcosa di interessante. Quindi lui andava con questo ombrellino, batteva le piante, raccoglieva questi insetti, dopodiché diciamo dall'osservazione di qualcuno di questi esemplari, non ricordo adesso se l'ha preso Elvira quel giorno o l'ho preso io o l'ho preso direttamente lui facendo queste attività, è venuto fuori che questa è una specie nuova per la scienza che lui ha determinato in Maltodes reginus. Questa è un'altra attività ancora che noi abbiamo svolto, in questo caso l'abbiamo fatto sulla fauna tricotterologica. I tricotteri sono dei bioindicatori molto importanti, assomigliano a delle piccole farfalline ma hanno una parte di vita che loro vivono in acqua, vedete, in questi astucci larvari vicino ai torrenti. Abbiamo fatto questa attività in collaborazione, ed è un'attività che dura da tantissimi anni e dura tuttora con il Museo di Storia Naturale di Bergamo, ok? Nel mezzo insomma si vede il dottore Valle, che è il direttore poi del Museo di Storia Naturale. Li abbiamo portati in Aspromonte e anche qui poi mi è venuta fuori una bellissima storia, perché siamo riusciti a realizzare questo volume dei tricotteri di Calabria. Come vedete insomma noi risultiamo sempre tra i ringraziamenti, perché in questo caso ci hanno ringraziato, ecco, un ringraziamento particolare a Francesco Avanti e Elvira Castiglione per il grande impegno nelle raccolte effettuate in Aspromonte, perché noi abbiamo, diciamo, girato tutto l'Aspromonte con loro e senza di loro, andando alla ricerca di questi animaletti. Stessa cosa invece è stata qui sul nome particolare, Emitteri aukenorrhynchi, insomma sono le cosiddette cicaline, ok? È un mondo a noi sconosciuto, insomma, di piccoli animali di pochi millimetri, che invece rappresentano veramente una grandissima varietà. E qui lascio parlare Elvira, che ci sono cose più... Sì, questo, ecco qui l'insetto che abbiamo scoperto, anche questa è una specie nuova per la scienza, e l'abbiamo trovata ai pantani, al pantano di Montalto, intorno ai 1800 metri sul livello del mare, in questa prateria acquitrinosa, ricchissima di acqua, e abbiamo trovato questa piccola, questo piccolo, diciamo, insetto di pochi millimetri, sembrava vedevamo volare queste cose in aria, sembrava pulviscolo atmosferico, in realtà invece erano insetti. E immaginate anche per raccoglierli, insomma, la fatica immane per poterle, perché sono tra l'altro velocissimi. E questa volta l'abbiamo dedicato all'intero Aspromonte. Sì, questa volta l'abbiamo chiamato Psammotetics Aspromontanus. Ecco, esatto, Psammotetics Aspromontanus. Eccolo qui, facciamo nelle altre ricerche, negli anni successivi, insomma, abbiamo scoperto delle altre specie che sembrerebbero nuove per la scienza, e anche lì si sta valutando tutta una serie di attività che devono essere fatte. Perché voi immaginate, quando si scopre una nuova specie, non è, diciamo, semplicissimo, perché, ok, si capisce che è un insetto diverso dagli altri, però è molto simile ai suoi congeneri, e quindi si deve fare tutto un lavoro particolare. Ad esempio, in questo, che magari forse non l'abbiamo portato, nel maschietto di questi animaletti qua, che vengono catturati e uccisi, diciamo, ecco, insomma, però il numero, insomma, molto, insomma, scarso, insomma, una decina, una ventina di individui rispetto alle migliaia che ci sono, insomma, dai maschietti deve essere estratto l'edeago, sarebbe l'apparato maschile, insomma, ok, perché quell'apparato maschile è unico per ogni specie. Questo apparato maschile lui è di 3 mm e mezzo, l'apparato è di meno di un millimetro, deve essere poi messo a confronto con tutta la serie dello stesso genere, quindi parliamo di 60, 80, 100, 200 generi simili, ok? Nel momento in cui si capisce che questo apparato è completamente diverso rispetto alla forma e alla struttura dell'insetto, rispetto alla località dove è stato trovato, a quel punto si può dire che quello è considerato un insetto nuovo. E quindi questi due animaletti, che veramente non sono solo due, diciamo, per la fretta, insomma, non abbiamo messi altri, sono quanti? Ancora 4-6 che devono essere. Ancora sono circa 6 specie che stiamo esaminando, stiamo studiando di questo gruppo qui. Che probabilmente, molto probabilmente, al 90% sono specie nuove. Sì. Che dobbiamo, tra l'altro, poi. Ah, scusatemi. Tra l'altro c'è anche poi, diciamo, il lavoro enorme di cercare il nome giusto, perché non è che possiamo, insomma, dare nomi così a caso, quindi anche lì c'è tutto uno studio, perché non dobbiamo stare attenti a non mettere nomi già ripetuti, scegliere un nome adeguato, eccetera. Anche lì, insomma, c'è un bel da fare. Vabbè, una delle specie che verrà presto fuori si chiamerà Clorite Elvire, perché ogni tanto, diciamo, abbiamo necessità anche noi di essere inseriti, insomma, nei libri di scienze. Quindi, insomma, il prossimo esemplare, cioè la prossima pubblicazione sarà questa della scoperta di Clorite Elvira, che sono specie che tra l'altro stanno solo qui da noi, okay? Che abbiamo trovato in alcune zone dell'Aspromonte, che nelle ultime attività che abbiamo fatto abbiamo trovato anche in qualche altra zona, sempre l'areale dell'Aspromonte, Santa Cristina, Terreti, oppure Gambari, insomma, queste località. Altre attività, vedete, studi sulla componente aracnologica, quindi anche i ragni, noi non ci facciamo mancare nulla, abbiamo fatto venire qui, vedete, il più grande esperto europeo, che si chiama Paolo Pantini dell'Università di Bergamo, e con lui siamo andati in giro, insomma, soprattutto di notte a fare ricerca di ragni. E anche qui abbiamo contribuito alla realizzazione di questa, diciamo, pubblicazione, insomma, che si chiama I Ragni di Calabria. Siccome poi erano talmente tanti le catture che avevamo fatto e la roba da elaborare, negli anni successivi poi, diciamo, sono venute qui anche fuori anche specie nuove per la scienza di ragni. Okay? In particolare, ad esempio, la vuoi dire tu questa cosa di Ignazio Leni? Nome? No, non l'ho messo voi. No. Sì, diciamo un ragno che abbiamo trovato poco prima di Gambari, giusto? Sì, no? Sì, la località Sant'Antonio, Pidima. Sì, è un ragno nuovo per la scienza, scoperto tra l'altro da questo ragazzo che è un brillante aracnologo, che purtroppo adesso non c'è più perché, insomma, è venuto a mancare, e quindi è stato dedicato a lui, quindi l'abbiamo chiamato con il suo nome. L'abbiamo chiamato con il suo nome, però in una maniera particolare, siccome lui, questo Federico Mazzoleni, si occupava di parkour, cioè faceva salti, diciamo, e in dialetto bergamasco lo chiamavano il gatoi, gatto. Allora la specie è stata chiamata con, diciamo, Il latino poi è venuto Gatoi, Gatoi, quindi è stato dato il suo nome, però di un animaletto raccolto qui da noi, da me, del Vida in Calabria, insomma. Altre attività che vi faccio vedere, la ricerca sui coleotteri stafilini, che sono piccoli animaletti che appartengono al gruppo della, dei coleotteri. Sono tantissime specie, sì, possiamo andare avanti. Vedete, questa è una delle tecniche di ricerca usate dal nostro amico entomologo Andrea, che è di Verona, che sale sugli alberi per raccogliere dei funghi che si sviluppano su alcuni alberi. Dentro questi funghi si trovano questi piccoli animaletti, insomma. Quindi la ricerca, insomma, è stata poi, devo dire, anche qui molto proficua. Queste sono le attività, i funghi si mettono poi su una, diciamo, tovaglia, e si sta lì ad osservare che esca qualche cosa, anche per ore, si sta. Come si chiamano i funghi? No, sono funghi che crescono sull'albero, non sono funghi commestibili, diciamo. Sono quelli, insomma, che si sviluppano quando l'albero magari è già quasi morto. Come? La pata di tacchino, quello là. A Menzola, dici? No, quelli a Menzola sono del Fomes, anche lì abbiamo trovato qualche. Quelli però sono funghi legnosi, insomma, con caratteristiche legnose. Anche lì abbiamo trovato qualcosina, devo dire. Ok? Ecco qua, tipo questi. Questi animaletti sono i piccoli coleotteri stafilini, che però anche loro sono importanti ai fini della biodiversità, perché sono dei bioindicatori. La loro presenza in alcune specie, la presenza di alcune specie è proprio bioindicatrice della ottima salute che hanno quei torrenti, quei boschi e quelle montagne. Okay? Ottima qualità ambientale. Ottima qualità ambientale. E sono degli aspiratori. Quindi in parole povere, diciamo, sono come quelli che tirano il mucco ai piccolini, ai ragazzini, insomma, ecco. Si mettono in bocca e si aspira, perché sono talmente piccoli che non è difficile anche recuperarli con le pinzette o con le mani, insomma. Quindi con l'aspiratore invece si raccolgono in questi, si osservano, se poi vanno bene si prendono, altrimenti si liberano. Ok. Vabbè, e poi, insomma, quello che vi facciamo vedere qui sono questi ambienti bellissimi che abbiamo in Aspromonte, di montagna, dove sì, no, vabbè, poi far vedere. Questi sono, ecco, i piccoli animaletti, vedete, queste sono tutte immagini allo stereoscopio, perché questi animaletti sono veramente tutti millimetrici, ok? E questi sono altri ambienti montani dell'Aspromonte, dove noi abbiamo fatto queste attività di raccolta. Ok, adesso qui rapidi. Sì, questa è la bellissima quercia, rovere meridionale, non so se ne avete sentito parlare, quindi è una quercia che abbiamo qui proprio, diciamo, nell'Italia meridionale, la quercia sicuramente di per sé è simbolo di, insomma, di forza, di grande resistenza. Ecco, in particolare queste querce sono ultracentenarie, quindi ne abbiamo veramente degli esemplari straordinari proprio nel cuore dell'Aspromonte. Questa è vicino alla cascata Forgiarelle, non so chi c'è mai stato, insomma, sono presenti questi bellissimi alberi che sono veramente, insomma, un simbolo dell'Italia meridionale. E qui abbiamo messo un albero. L'albero sicuramente è un organismo straordinario, è una sorta di condominio dove troviamo di tutto e di più gli organismi che vi sono adattati, che insomma colonizzano questo habitat, sono tra i più numerosi e più diciamo diversificati. All'interno di una cavità, il fungo sull'albero, il ramo rotto, rappresentano dei micro habitat dove si insediano degli organismi che sono adattati a sfruttare queste risorse, che sono limitatissime, perché il tronco è morto, perché diciamo là dentro ci piove, insomma. Ok, quello che potrebbe sembrare, per esempio, queste cavità dove ce ne sono, aspettate che vi faccio vedere meglio, ecco, dove ci sono alla base oppure lungo appunto l'altezza dell'albero, potrebbero sembrare, diciamo, degli inestetismi della pianta. In realtà sono importantissimi, perché questi sono dei siti che vengono sfruttati dalle popolazioni, dagli abitanti del bosco, per potersi riprodurre, per potersi dissetare e quant'altro. Quindi sono micro habitat importantissimi. E tant'è che con le nuove prescrizioni di massima polizia forestale, quindi nuovi regolamenti, questi alberi non vengono più tagliati, vengono rilasciati nel bosco, perché... anche gli alberi morti vengono lasciati in dotazione al bosco per la gestione di questa biodiversità. E in effetti dagli alberi comunque, insomma, un po' più malandati o addirittura dagli alberi morti, riparte la vita, perché appunto si trasforma poi in sostanza organica che viene poi sfruttata appunto dagli altri organismi del bosco, dalle piante, ma anche dagli stessi animali che in questa necromassa cosiddetta trovano rifugio, trovano cibo, luoghi di, insomma, siti di riproduzione e così via. Saproxilici, ok? Intendiamo anche uccelli, mammiferi, rettili, quindi non solo insetti, va bene? Velocemente, che magari non vogliamo, sì. Ecco, l'importanza del... L'abbiamo detto, quindi abbiamo accennato l'importanza del legno morto, quindi il bosco con il legno morto all'interno non deve vedersi come un bosco caotico, come un bosco disordinato. Deve invece il legno morto rappresentare una componente costante, deve essere presente nel bosco per garantire l'equilibrio proprio di questo ecosistema. Vabbè, qui insomma abbiamo altre foto sempre delle bellissime querce. Mi stiamo parlando di un ventennio di studi, sì. Noi sono quasi 20 anni che ci occupiamo di questi aspetti. Questo è uno degli insetti che abbiamo trovato proprio sempre in Aspromonte, uno dei più bei coleotteri, è stato definito così, presenti, è mai capitato a qualcuno di vederlo? Presenti in Europa. No. Sì? Così? Credo proprio di sì, era proprio azzurro, non so se rende tanto. Sì, sì, azzurro. Sì, sì. Queste macchie così scure. Te lo facciamo vedere meglio. È grande 3 cm e mezzo, 4 cm, insomma. È grande con le antenne molto lunghe ed ha questo colore bellissimo, grigio e nero. Tra l'altro anche questo non si può catturare, quindi sono noi per fare il monitoraggio facciamo una marcatura fotografica, perché la parte che riguarda le macchie, ok, è unica per ogni esemplare. Quindi quando noi facciamo il marcaggio fotografico, lo fotografiamo, poi lo mettiamo in un software e lui analizza se quello è lo stesso individuo o sono due individui diversi. Quindi ci serve per gli studi sulla ricchezza. Sono due licenziate. Sì, certo, certo. Ma quanto io un esemplare di quel tipo? Pochi mesi, forse un mesetto. Pochi mesi. Sì, sì, e la larva invece che ha una vita più lunga, anche 2 o 3 anni. E la larva vive nel legno morto, quindi si nutre di legno morto, quindi questi animali, pensate quanto sia importante che ci siano questi organismi nel bosco, perché se non ci fossero, che cosa succederebbe? L'albero morendo cadrebbe a terra e rimarrebbe lì costantemente all'infinito, e quindi avremmo un accumulo di tonnellate e tonnellate di alberi morti che renderebbero impossibile la vita nel bosco. Invece questi organismi piano piano, masticando, digerendo, mangiando, essendo mangiati, insomma, essendo anch'essi mangiati, perché poi è tutto un ciclo, riescono quindi a organicare la sostanza, trasformare quindi in sostanze organiche e quindi in sostanze nutrienti il legno morto. Questo è l'ambiente tipico di questa rosaria alpina, il suffaggio in boschi abbastanza isolati, insomma, del nostro Aspromonte. E se lo vedete così piccolino sul tronco, lo vedete? Riuscite a vederlo, dov'è? Eccolo là, sì, cerchiato, sì. Insomma. E quindi è anche abbastanza mimetico. Sì, sì. Ok. E la caratteristica ha un foro di sfarfallamento dal legno particolarissimo, che è quello cerchiato. Quindi anche se noi non vediamo l'individuo e osserviamo il foro di sfarfallamento, per noi vale come presenza, ok? Perché quel foro sicuramente l'ha fatto lui. Quindi vuol dire che è maturo. Sì, no, vuol dire, sì, che è nato, diciamo che sta... allora, l'adulto è nato. Ogni anno esatto. Noi riusciamo ad andare su alcuni alberi dove sappiamo di trovarla, e ogni anno in quei giorni particolari la troviamo. Non vi possiamo dire dove, perché sennò dovrebbe uccidervi. E non è giusto, insomma, non mi pare il caso. Quindi diciamo ogni anno, però può capitare un anno, arrivi lì, magari non c'è sole, non c'è l'illuminazione giusta, la temperatura adatta, non lo vedi. Però se vedi fuori, il sfarfallamento significa che lui c'è. Sta lavorando, eccetera. Vi facciamo vedere brevemente un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Ecco. Se parte. Parte? Di solito partiva, però vediamo. Ah, in modalità non ecco qua. Ah, ok. Bellissimo. Sì. È molto bello, è molto elegante, vedete queste lunghissime antenne, tra l'altro proprio questa caratteristica delle antenne così lunghe è tipica di questi coleotteri che si chiamano cerambicidi o longicorni, proprio per via di queste lunghe antenne. È una specie quindi protetta a livello europeo con la direttiva Habitat, questo provvedimento insomma legislativo importantissimo che serve proprio a salvaguardare queste specie che sono particolarmente importanti e di grande, diciamo, rilevanza conservazionistica. E questo è proprio un fortissimo bioindicatore, nel senso che la presenza di questo insetto fa sì che quella faggeta o quell'area lì sia veramente, diciamo, lontana da qualsiasi fonte di inquinamento, quindi una qualità ambientale veramente ottima. Veramente ottima. Va bene, andiamo avanti perché sennò non ne usciamo più. Noi qua potremmo parlare un sacco di ore, ma ci rendiamo conto che... Tra l'altro non siamo nemmeno abituati a parlare davanti alla platea di gente, noi parliamo insomma con i ragazzini, con le cose. Ma noi siamo come i ragazzini. Ah, sì. Bella questa, bellissima. Okay. Allora. Sì, poi naturalmente insomma abbiamo portato solo... qualche piccolo esempio rispetto a tutte le specie che effettivamente abbiamo, ecco, per farvi incontrato negli la anni. La in cui ci troviamo nell'Aspromonte, questo amichetto qua che è veramente piccolissimo, che si chiama Pogonocerus, vedete a livello di UCN, quindi Comitato di Protezione delle Cose, veramente è in pericolo critico. E noi in Calabria, in Aspromonte, lo abbiamo osservato diverse volte, quindi sicuramente da noi non è in pericolo, però a livello europeo è considerato in pericolo da questa UCN, ok? E quindi adesso qui vi faccio vedere un po' di animaletti che, diciamo, abbiamo scoperto, così abbiamo osservato in Aspromonte, che sono finiti in relazioni, in attività che abbiamo fatto per conto dell'ente parco della regione Calabria, con tutta una serie di particolarità, insomma. Ad esempio questo è il Clinidium canaliculatum, quella è una mano, vedete quindi quanto è piccolo questo animaletto, insomma, sono proprio minuscoli, no, come... pochissimi millimetri, guardate che perfezione. Sembrano veramente... Scusi. Dicevo, pochi millimetri però di perfezione assoluta. Guardate ad esempio le sculture, perché poi ci sono tutta una serie di sculture, di disegni. Vedete, queste sono le cosiddette elitre tipiche dei coleotteri. Oppure le antenne, guardate come sono particolari, sembrano delle perle, insomma, di una collana, insomma, veramente vediamo, a volte ci troviamo di fronte a dei piccoli capolavori. Vabbè, questi sono altri animali, ti vuoi parlare di te? Sì. Sì, anche questo, vabbè, Epidia pinotata, anche questi sono, tra l'altro, specie, la cosa questa interessante, sono specie molto rare. Quella che vedete ad esempio è una specie antica, esatto, parte dei trogossidi. Trogossitide, che è una famiglia insomma di veri e propri fossili viventi che abbiamo appunto trovato anche qui in Aspromonte. Sono tutte foto nostre, naturalmente sono tutte foto di questo, diciamo, piccolo coleottero, il Timalus nimbatus, anche questo sempre un trogossitide. Guardate il particolare delle elitre, torniamo un attimo indietro, guardate lì. Immaginate tutta la superficie tempestata da questi forellini, diciamo, da queste piccole sculture che li rendono veramente particolari. Questo è molto bello da vedere. Ah, questo invece è un insetto metallescente, ci sono anche quelli appunto che assomigliano molto per questa particolare colorazione a quasi fossero insomma di metallo. Questa è una specie che abbiamo trovato anche qui in Aspromonte, anche piuttosto comune per noi, insomma, comune per noi, ma è una specie, insomma, anche questa è una specie protetta, interessante, sì. Come lo è questo qui, che è il Cucuyus hematodes, che diciamo, è un chiamato anche il coleottero ultrapiatto, vive proprio sotto la corteccia. Da noi qui dell'abete, sul insila invece sta anche sotto i pini, ed è bellissimo perché, vedete, è super super piatto. E lui non si nutre di legno morto da adulto e da larva, ma è un predatore, quindi preda quelli che stanno... Però anch'esso è importante, insomma, ai fini della conservazione della biodiversità. Molto raro. È molto raro. Vedete, qua proprio si vede, è bellissimo veramente, insomma, come... Cioè, bellissimo per noi, è bellissimo. Poi, non lo so, dipende, ecco. Però nell'insieme è molto particolare. Ora, in genere, noi chiudiamo con questa bellissima foto che è stata scattata un po' di anni fa. Infatti, vedete, in piccolo ci siamo sia io che Elvira, in basso. In uno dei sei boschi vetusti dell'Aspromonte, ok? Boschi vetusti sono dei boschi che presentano delle caratteristiche di vetustà, quindi con piante che possono avere anche 500-600 anni, eccetera, eccetera. E di questo vi vogliamo, diciamo, in genere finiamo sempre così con questa bellissima frase di Wilson, la diversità delle forme di vita così numerose che dobbiamo ancora identificare nella maggior parte è la più grande meraviglia di questo pianeta, che noi la stiamo sperimentando annualmente, insomma, con le nostre attività di ricerca, perché veramente, insomma, ne dobbiamo identificare tantissime. In genere finivamo così, dobbiamo fare un piccolo, insomma, vedete, questo bosco vetusto di pino calabro, ok, si trovava in località Serro di Acatti, zona del comune di San Luca, in un posto non dico irraggiungibile, ma ci volevano 2 ore per arrivare con la macchina, poi da fare 5-6 km a piedi per osservarlo, insomma, quindi era veramente, insomma, abbastanza nascosto. Era un bosco molto bello, insomma, ecco, da questa vallata si vede sulla a destra, proprio, insomma, nel cuore del nostro Aspromonte, in zona A del parco. Ecco qua, presentava queste piante enormi, non so se qualcuno di voi conosce i giganti di Fallistro, quelli di Cosenza, molto simili, solo che quelli sono concentrati in una piccola area, sono una quarantina numerati, è diventato, quelli erano invece liberi, diciamo, erano nella montagna, insomma, circondati da altri alberi un po' più piccoli, vedete, alberi veramente enormi, insomma, con cavità, diciamo, grandissime, con altezze molto importanti, con delle cavità, insomma, parliamo di alberi che avevano 500 anni, che avevano diametri di 1,35 m, insomma, 1,40 m. Dei giganti. Veramente dei giganti. Patriarchi. Ecco qua. Vi giuro, andare lì in quei boschi sembrava di essere tornati indietro nel tempo, perché vedere, insomma, questi ambienti era molto, molto bello, anche facendoci gli studi. Vedete, questi sono alcuni altri, diciamo, momenti, insomma, di diciamo, nostra contentezza, ok, questo è un altro bosco, e questa è l'ultima immagine che abbiamo, questo è il nostro collega, è un entomologo di Trieste, del Museo di Storia Naturale di Trieste, lui è un entomologo di caverna, quindi il bosco, insomma, lo vive in maniera molto bella, perché si rilassa, insomma, e lui è abituato ad andare nelle grotte slovene, insomma, alla ricerca di piccoli insetti di grotta. E questa è l'immagine che abbiamo voluto mettere, diciamo, prima di questa. Ecco qua. Se non vuole andare prima avanti. Prima di questa, insomma. Questo è il bosco di Acatti, che ad agosto 2021 è stato bruciato, o si è bruciato, insomma, non si è saputo spegnere, insomma, ed è andato distrutto. E noi ci siamo tornati a distanza di un anno da quando è successo l'evento, quindi ci siamo tornati l'anno scorso, e abbiamo voluto iniziare uno studio per capire cosa succede al bosco quando c'è un evento di queste dimensioni molto importanti, perché l'intero bosco, che era di 35 ettari, si è bruciato. Tutto intorno si sono bruciati 1000 ettari di pineta, però il bosco vetusto era di circa 35 ettari. Poteva avere forse 700-800 piante vetuste, insomma, che sono andate tutte bruciate. Cioè, l'incendio qui ha bruciato fino a ottobre quasi, da agosto. E noi adesso stiamo facendo, è il secondo anno che stiamo conducendo questo studio, del quale non vi parleremo perché, insomma, non vi vogliamo tediare più di tanto. E osservate, questo ad esempio, guardate quanto siamo piccoli noi rispetto a quella pianta, vedete? Sì. Questa è l'immagine di prima che abbiamo fatto vedere. L'immagine di prima che vi abbiamo fatto vedere all'inizio, dove eravamo noi due, e l'immagine come adesso. Io sono qui e questo è quello che purtroppo resta di questi giganteschi, di questi giganti buoni, li chiamavamo così, che purtroppo non ci sono più. Naturalmente lo studio stiamo portando avanti riguarda sempre l'entomofauna, quindi stiamo cercando di capire quando il bosco brucia che cosa succede. La prima entomofauna che si muove è quella delle formiche, ok? Anche se lì devo dire che le formiche hanno subito tra virgolette perdite, perché l'incendio non solo è stato di chioma, ma anche stato, diciamo, a livello di lettiera, tant'è vero che noi forse nei primi 40 centimetri abbiamo avuto anche perdite totali. Noi abbiamo raccolto dei campioni di terra, abbiamo cercato, insomma, di capire cosa era rimasto. E adesso stanno arrivando nuove specie, delle specie pioniere, quindi il bosco lentamente comincia, però parliamoci chiaro, ci vorranno 500 anni per ripristinare questo bosco se non succede niente. Abbiamo, vedete, notato i principi così di rinascita, quella ad esempio la terza è una quercia che sta nascendo dentro la pineta, e poi dei fiorellini, insomma, delle specie così che... E questo l'abbiamo voluto, insomma, mettere alla fine del nostro... Questo è uno dei piccoli, pini che sta crescendo, insomma, e sta cercando di emergere, insomma. E che, insomma, la vita, certo, poi la natura, la sua straordinaria forza avviene poi fuori, ma molto lentamente. Giustamente i tempi saranno lunghissimi, non è detto che avremo lo stesso tipologia di bosco, perché come sapete tutto può cambiare, le variabili sono tante, i cambiamenti climatici sono in atto, quindi il bosco di acatti così com'era all'origine non ci sarà più, sarà qualcosa di diverso, insomma, alla fine nasceranno comunque le nuove piante e riprenderanno in qualche maniera la loro storia. Il nostro intervento è finito, tutte le domande che volete fare a Elvira. Ah, ecco, ce n'è una subito pronta. Due domande. Ok. Non difficili, per favore. No. Volevo sapere, a parte le maledette zanzare, che tipo di insetti ci possiamo trovare qui, in questo esatto parco? Beh, sicuramente, allora... Le mosche. Le cetonie magari sono più o meno grosse così. Avete qualche foto? Benissimo. Così magari ci rendiamo meglio conto. Sì. Questo è uno scarabeide, il genere Anoxia. Sono delle, diciamo, dei piccoli coleotteri che cominciano a volare solitamente dalla primavera, esatto, in poi. Dei campi, insomma, ci saranno dei campi qui intorno, sì. Insomma, quindi si nutrono di fiori. Sì, si nutrono di polline, solitamente sui fiori. Puoi scrivere Anoxia. Anoxia. Anoxia SP, che non ci spingiamo oltre. Vabbè, probabilmente quella, dai disegni che ho visto, potrebbe essere Anoxia orientalis. Sì, dicevamo... Ti ho detto di parlare con Elvira. sì, molto comodo. qui, diciamo, in questo ambiente sicuramente... allora, le specie naturalmente sono in generale condizionate dalla temperatura. In questo caso siamo... piuttosto vicini, insomma, al mare, quindi saranno sicuramente specie abituate all'aridità, quindi alla temperatura elevata, siccità, eccetera. E man mano che ci spostiamo, a seconda, insomma, le varie fasce altitudinali, naturalmente gli insetti cambiano le loro caratteristiche, cambiano le loro abitudini, quindi man mano che noi andiamo poi verso il bosco, sicuramente troviamo specie che sono molto più, diciamo, abituate quindi ad ambienti più umidi. Io voglio dirvi che ci saranno sicuramente le blatte, no? Le blatte stanno dappertutto. In montagna, però insomma, ecco, non sono le stesse che vivono qui. Ma io ne vi avevo un dicesimo, Quella è endemica. Sappiamo anche noi, insomma. Diciamo, sono tantissimi gli insetti che potremmo trovare per rispondere all'amico laggiù. Ottotri, quindi grilli, cavallette, insomma. In questi ambienti è facile trovarli, e poi un po' condizionata che ci sono intorno qua delle piantagioni, quindi ci sono dei campi, quindi magari si possono trovare anche molte farfalle, insomma, ecco, sicuramente. Poi? Allora, per esperienza, visto che sono una abitatrice del parco, ci sono tantissime formiche di qualsiasi dimensione, ma invece Blatte, nonostante siano tra gli abitanti più numerosi di Reggio Calabria, qui non ce ne sono. Qui per niente? Sono tante, magari più degli scarafaggi, quelli neri. Sono sempre blatte. No, con le otte. Credo che siano siano con le otte. Non le cupe. Le tipiche, sì. Quelli sicuramente sono con le otte. Potrebbe essere qualche pimeglia, sì. Ma lì sono trasferiti a Reggio Centro. Sì, magari ci sono proprio le zone. Sì, Reggio Centro. Sì, ecco, l'entomologia urbana è una delle branche così, insomma. Noi ci occupiamo più di entomologia forestale e facciamo tantissime entomologie di conservazione. Esistono tante branche, pensate che c'è anche la branca dell'entomologia forense, no? Sono quelli che si analizzano i cadaveri, ecco, e quindi ci sono tante. Quello sì, diciamo, più forse Grison, quello di CSI Miami, insomma, che facevano. Ma qui ci sono anche, insomma. In ogni caso che di omicidio, eccetera, eccetera, viene sempre chiamato un medico oppure un entomologo forense. Sì, solitamente il medico legale può essere accompagnato dall'entomologo forense, perché grazie alla presenza, come sapete, insomma, no? I cadaveri, le carcasse poi vengono subito colonizzati da larve di tutti i tipi. A seconda del tipo di larva, noi possiamo avere, per esempio, gli insetti della prima ora, della seconda ora, quindi si può risalire addirittura all'intervallo post mortem, quindi quanto da quanto tempo quindi è avvenuta la morte. Queste sono, insomma, sicuramente notizie, informazioni importanti per poter venire a capo di, insomma, di casi criminali che purtroppo sono all'ordine del giorno. Ecco, dico sì. Dicevate che per appunto studiare gli insetti comunque dovete prendere i campioni e dovete ammazzarli, ma com'è che fate ammazzarli? Allora, cerchiamo naturalmente di non far soffrire l'animale. Innanzitutto prendiamo i campioni strettamente necessari, quindi non vogliamo, insomma, uno spreco, ecco, di organismi biologici. Prendiamo quello che serve e cerchiamo di far in qualche maniera, ad esempio, utilizzare quella che chiamiamo la dolce morte, quindi utilizziamo per esempio dell'etere che fa addormentare gli animaletti e quindi non si accorgono del passaggio, ecco, tra la vita e la morte. Diciamo, diciamo che dovrebbe essere. Certamente quando facciamo gli studi, se è una specie che ancora non conosciamo, non li catturiamo, li osserviamo semplicemente. Si fanno questi studi, alcune volte invece di fare il marcaggio fotografico si fa il marcaggio, quindi si marcano proprio fisicamente con un'iposca, con un colore, alcune parti dell'individuo e si libera. In maniera che se poi l'individuo viene catturato e c'è quella macchia particolare a destra o a sinistra dell'elitra, tu capisci che già l'hai catturato la settimana precedente, insomma, eccetera, eccetera. Quindi si fanno questi studi così. Poi il marcaggio fotografico, certo, alcuni insetti, insomma, noi, devo dire la verità, noi li catturiamo perché poi devono essere analizzati. Tra l'altro i campioni che abbiamo raccolto e che sono serviti per identificare le specie nuove, i primi due campioni vengono posizionati presso un museo pubblico, insomma, quindi un museo di storia naturale, un ente, insomma, che presso il quale poi altri entomologi nei prossimi anni potranno andare lì a vedere gli esemplari catturati da noi e capire se quello che hanno preso loro è una specie uguale alla nostra o è diversa. Ok? Quindi questi campioni diventano i campioni che noi catturiamo, che si chiamano olotipi, gli viene messo un cartellino rosso e questi vengono, diciamo, c'è scritto negli articoli, vengono posizionati presso un museo di storia naturale, quindi può essere italiano o estero, insomma, è riconoscibile, è riconosciuto, e quindi sono dei beni culturali alla fine, diventano dei beni culturali. Sì. Allucinogeni, insetti allucinogeni. No, anche i gattari. Perché allucinogeni. No, più che... Allora, più che allucinogeni, diciamo, ci sono degli insetti, ad esempio, che vengono, almeno venivano, insomma, venivano più venivano. Che altro, utilizzati a scopo terapeutico, venivano quindi essiccati una volta morti, polverizzate le elitre. E venivano insomma somministrati perché contenevano ad esempio una sostanza particolare che si chiama cantaridina. Il gruppo dei cantardi, quelli che abbiamo visto prima, quello Liberti con l'ombrello giallo, il gruppo dei cantardi appartiene alla Litta Vescicatoria, mi pare si chiama. Sì, esatto, che pare abbia anche insomma... Sì, che abbia proprietà afrodisiache. Però non pensate che un paio di anni fa ci è capitato questo, a febbraio del 2021, nel 2020, quindi pre-Covid, e ci segnalano a Gioia Tauro un ragno. Andiamo a prenderlo ed era il famoso ragno delle banane. Ok. Preso in un container, ok, ci è stato consegnato e l'abbiamo portato in università per diciamo, osservarlo, eccetera, eccetera. E poi stava chiudendo l'università perché c'era il Covid, io me lo sono portato a casa e l'ho continuato ad allevare fino a quando poi non è morto, insomma, sì, di morte, insomma, naturale. Questo ragno è velenoso, mortale, però, diciamo, il suo morso viene utilizzato per aspetti che riguardano... L'erezione. C'è gente informata qui, culturalmente. Esatto. Pare che uno del, diciamo, il cosiddetto priapismo. Uno infatti delle... lo volevo noleggiare io, in quel periodo. Ma poi era l'ultima volta, però. Bravo. Però poi muori, esatto. Vabbè, volevo noleggiarlo, ma diciamo, c'era il Covid e quindi non è... Non abbiamo potuto. Vabbè, tanto in quel periodo qualsiasi cosa sono morti di Covid, quindi lo potevi inserire pure in quella cosa. Però si muore felici. Il problema è lo shock della partner. E noi stiamo anche molto attenti perché in questi ultimi anni sta anche arrivando molta roba, diciamo, attraverso il porto, attraverso aliena. La settimana scorsa abbiamo contattato una ragazza che è a Locri. Aveva recuperato un animaletto che è il secondo ritrovamento in Calabria, il primo l'abbiamo fatto noi a Prunella di Merito, insomma, di un emittero che si chiama Letocerus, che sembra provenga o dai Balcani o dall'Africa. È una cimice acquatica molto grande, che è dolorosa anche se morde, e che nella nostra fauna provocherebbe danni diciamo incalcolabili perché non ha nemici naturali, si nutre anche di piccoli anfibi, quindi nelle nostre pozze farebbe veramente danni. Eppure il nostro è il secondo esemplare che arriva, il primo a Merito, il secondo a Locri. Noi stiamo cercando di monitorare, abbiamo fatto anche un gruppo con altri colleghi perché arrivano più spesso in Puglia. In Puglia ne sono arrivati già forse una decina negli ultimi anni, insomma. Il nostro potrebbe essere un esemplare proveniente dall'Africa, perché le specie sono due, una che viene dai Balcani, una che viene dall'Africa. Non abbiamo potuto analizzare perché quello che abbiamo catturato noi era una femmina e quindi non, dal maschio noi avremmo estratto insomma l'apparato per capire se era una specie o l'altra. C'è un periodo arrivano gli scorpioni con i tappeti. Con i tappeti, persiani. Persiani, certo, arrivano certo. Gli scorpioni. Allora, purtroppo questo, vedete, diventerà un problema sempre più grande. La globalizzazione purtroppo porta anche a questo. E soprattutto il fatto di non applicare i dovuti controlli e quindi entra materiale in maniera indiscriminata da tutto il mondo, arriva insomma anche materiale vivaistico già contaminato che arriva qui da noi, purtroppo ha portato e continuerà a portare problematiche del genere. La famosa vespa del castagno, per esempio, che è stato un vero flagello, quella è arrivata anche attraverso materiale vivaistico contaminato. È arrivata nel 2013 in Piemonte e poi si è distribuita nel 2019, era già a Reggio, insomma, nelle nostre colline, nelle nostre montagne. A perdita proprio, a macchia d'olio. Si poi è, c'è si da dire anche che la natura naturalmente si risveglia e quindi si riorganizza, per cui lui, abbiamo notato in questi ultimi anni che sono molti predatori locali che stavano prima su altre specie e si sono spostati su questa nuova specie, quindi c'è una riorganizzazione, tant'è vero che negli ultimi anni qualche castagna siamo riusciti a mangiarla, perché c'è stato un miglioramento, proprio perché le specie... Ecco, gli studi servono anche a questo, no? Noi abbiamo ad esempio studiato questo si chiama Triocosmus curifilus yasumatsu, l'insettino, questa vespa, è una vespa piccolissima che si feconda da sola perché va per partenogenesi, è solo femmina, e punge la pianta, la gemma che deve poi l'anno successivo diventare o una foglia o o il frutto, provoca delle deformazioni che si chiamano galle, ok? All'interno, insomma, l'animaletto si... abbiamo notato quasi 15 specie diverse di altre piccole vespe locali che sono intervenute in difesa, insomma, in difesa per mangiarsi la preda, insomma, si chiamano parassitoi, insomma. È un po' complesso così da dire adesso. Altre domande? Io volevo dire una cosa. Sì. Però quasi è una domanda retorica, quindi non si interviene quando c'è uno o due esemplari di una specie potenzialmente dannosa, non è che si interviene umanamente per eliminarla, o ogni tanto sì. Purtroppo capita, ad esempio, dal nord Italia con lo scoiattolo grigio. Sì, è capitato nel nord Italia con lo scoiattolo grigio, e qui ancora da noi non è arrivato, noi abbiamo solo lo scoiattolo nero. In questi casi purtroppo si interviene cercando di fermare, diciamo, anche con pochi esemplari. Per esempio al Lago Maggiore c'è la japonica, la popiglia. Quello ormai è impossibile fermarla. Sì. Sono milioni, ormai purtroppo è impossibile fermarla. Quella purtroppo... In effetti quando sono particolarmente invasivi, possiamo chiudere? Sì. Per noi siamo soddisfatti. Scusate, non voleva essere così, però c'è sento che pure piove. Dopo l'interesse chiaramente è alto. Se voi rimanete qui, magari concludete quel che stavate dicendo. No, abbiamo dato spazio alle domande. Ci interessava perché abbiamo interessavano altre domande perché abbiamo visto una platea a te. Avete rilevato effetti di cambiamento climatico sulla popolazione degli insetti? Purtroppo lentamente qualcosina, infatti ad esempio sulla Parnassius apollo, quella farfalla che avete visto con le macchiette rosse, sembrerebbe che con i cambiamenti climatici questa specie sia destinata a scomparire qui da noi, e quindi c'era in atto la possibilità di preparare un progetto per dire questa farfalla, qualche popolazione spostiamola più a nord, quindi magari sul Pollino, dove gli effetti arriveranno un po' più, però sono tutti aspetti che vanno studiati. Sono ipotesi, e naturalmente anche questi vogliono economie, che diciamo noi attualmente, insomma, perché ci vogliono economie molto importanti. Va bene. Grazie.